Sì, benvenute tutte al Parapiglia, sabbia femminista e lesbica nell'ingranaggio. Oggi parliamo di 41 bis e apriamo questa trasmissione con un audio che è stato registrato a Bologna alla presentazione del secondo volume del libro di Sakinè, Tutta la mia vita è stata una lotta. L'abbiamo già presentato qua e al martedì dai nostri microfoni questo libro. Il libro è stato scritto nel 96-98 nel periodo di prigionia della compagna rivoluzionaria Sakinè, che ci raccontava di quanto all'interno delle prigioni curde la sua vita sia stata pesante e di quanto si sia organizzata insieme alle altre donne, quanto la battaglia insieme alle altre detenute curde l'hanno aiutata a resistere alle torture attraverso la sorellanza e la solidarietà. E rispetto a questo, rispetto alle torture e alle condizioni di privazione che si vivono all'interno del carcere, all'interno di sempre di questa presentazione c'è stato anche un intervento di Severina Berselli, una compagna che da sempre si occupa di carcere e che parla all'interno di questo intervento di 41 bis. Oggi, durante il martedì, è stato mandato un altro intervento, sempre registrato durante questa iniziativa organizzata da femministe e lesbiche bolognesi intorno al libro di Sakinè Kansis, appunto il secondo volume della sua autobiografia. Ricordiamo anche, insomma, che Sakinè, da questi microfoni l'abbiamo detto tante volte, è una delle tre compagne curde che sono state ammazzate a Parigi ormai 3 anni fa. L'altro intervento, appunto, era stato mandato all'inizio, all'apertura di questo martedì, era un intervento di Silvia Baraldini, che potete riascoltare in settimana sul blog del martedì, mfla.noblogs.org. Un intervento, quello di Silvia, che indica punti importanti su cui riflettere, individuando la necessità di riconnettere le lotte di solidarietà con le curde e i curdi alle lotte di casa nostra, tra cui la necessità di interrogarsi sul fatto che sostenere chi in Kurdistan resiste attraverso la lotta armata ci dovrebbe portare a fare i conti anche con la storia dei nostri movimenti. Quindi, insomma, per approfondire questa questione abbiamo deciso di mandare in onda, appunto, questo intervento che ascolterete tra poco Severina Berselli, che appunto che parlerà in particolare del 41 bis e l'ordinamento penitenziario, spiegando cos'è, contestualizzandone la nascita, prima come un mezzo messo in atto per di mafia, poi anche allargato, insomma, altri contesti, tra cui, insomma, ci sono due compagne, una compagna, che sono in regime di 41 bis. L'idea è quello di collocare, appunto, il racconto della resistenza in carcere di Sakinè all'interno di un orizzonte più ampio e di parlare di carcere e di repressione anche, appunto, qui a casa nostra. Lo faremo anche dopo questo audio con una compagna della campagna Pagine contro la tortura, una campagna contro, appunto, il 41 bis. Presenteremo la campagna, è un'iniziativa che si tiene proprio questa settimana a Roma, cioè venerdì 13, dopo vari presidi, insomma, che sono stati organizzati da questa campagna davanti a alcune carceri che hanno il regime del 41 bis. Ricordiamo che è stato introdotto, tra l'altro, giusto per fare una nota storica, nel 75, e inizialmente riguardava solamente le situazioni di rivolta all'interno delle carceri. Siamo nel 2016, era una disposizione che aveva dei limiti temporali, quindi doveva durare 3 anni e poi casomai essere reintrodotta, ma tramite molte altre leggi, molte altre disposizioni, siamo nel 2016 e il 41 bis è ancora attivo. Nel suo intervento, insomma, poi Severina Berzelli, sentirete, insomma, parla anche di quel gruppo di compagni e compagni che vengono chiamati irriducibili, che non sono in regime di 41 bis ma che sono in carcere da 30-35 anni, come per esempio il gruppo delle prigioniere politiche di Latina, di cui, insomma, per molti anni abbiamo letto lettere, analisi sulla situazione sociale e politica che proveniva appunto da questo gruppo. Fra l'altro, insomma, ricordiamo che ci sono state delle mobilitazioni per loro quando nel 2010 è stata tolta, ridotta la possibilità per loro di lavorare in carcere, con una riduzione da 300 a 40 euro di paga mensili, con tutte le conseguenze che comporta non avere soldi in carcere, cioè non poter contribuire autonomamente a comprare cibo mangiabile, insomma, migliore negli spacci dei carceri, cui prezzi, insomma, lo ricordiamo, sono sempre molto alte, e gli era stata anche ridotta la possibilità di comprarsi libri o qualunque altra cosa in questo modo. Quindi adesso vi mandiamo questo intervento, che vi ricordiamo ancora è stato appunto registrato il 30 aprile scorso a Bologna, un'iniziativa femminista e lesbica di presentazione del libro di Sakineh, e poi torneremo in voce per parlare di 41 bis. Le condizioni delle carceri italiane non sono minimamente paragonabili a quelle descritte per l'Egitto e per l'Iraq, anche se c'è stato un periodo negli anni 80 quando furono istituite le carceri speciali, che tentarono di soffocare appunto le lotte che c'erano in carcere, e crearono appunto questo circuito due anni dopo che avevano fatto la riforma penitenziaria. Riforma penitenziaria che voglio ricordare fu fatta non tanto perché a un certo punto il governo e il regime decise che era diventato più democratico, ma perché c'erano stati nel passato tantissime lotte con un movimento di detenuti molto forte. Quindi nel 75 viene varata la riforma penitenziaria, che dà, diciamo, più garanzie al detenuto. Nel 77, visto che in carcere ci sono molti militanti, cominciano ad esserci molti militanti che fanno la lotta armata, vengono istituite le carceri speciali, vengono trasferiti in queste sette carceri, due su un'isola e tre su un'isola, Pianosa, Sinara e Favignana, e gli altri nel territorio italiano. Vi vengono mandati circa 2000 detenuti, fra detenuti politici e tutti quei detenuti che nel passato si erano distinti in queste lotte. Il regime, allora c'era l'articolo 90, si chiamava, ma io devo dire che, perché io l'ho frequentato in quel periodo, perché mi occupavo prima del Soccorso Rosso, poi entrai a far parte di un'associazione di familiari, e anche l'articolo 90 non era, diciamo così, praticato come il 41 bis a livello di distruzione. Cioè, ci fu il tentativo di isolare i detenuti appunto da tutto il corpo prigioniero, ma probabilmente perché a quel tempo i detenuti erano molti ed erano un corpo unito, ci furono varie lotte e devo dire che alcune furono vittoriose, no? Per esempio, per tre anni, dall'80 all'83 mi pare, misero i vetri divisori, cioè noi vedevamo i parenti attraverso un vetro divisorio, si parlava con un citofono. In seguito le lotte dei detenuti furono tolti. La Sinara fu chiusa in parte per le lotte dei detenuti e in parte perché un'organizzazione all'esterno aveva sequestrato un giudice e per la liberazione chiese la chiusura della Sinara. La Sinara è un'isola della Sardegna dove era, diciamo così, sembrava di essere fuori dal mondo. Io ricordo che la prima volta che ci andai, arrivai a questo porticciolo e mi sembrava di andare nei film tipo della Cayenna, dove una volta mandavano i detenuti, i prigionieri dall'Europa, li mandavano in queste isole. C'erano tutte queste guardie schierate e l'impressione fu proprio quella. Dicevo, le lotte dei detenuti, ci fu molta resistenza in quegli anni. Poi, come accennato prima Silvia, una parte di questo corpo prigioniero decise di dissociarsi, perché la legge sulla dissociazione l'ha fatto il governo, però su una proposta di una parte di questi prigionieri. Fecero questa legge per cui uno, appunto, che si dissociava usciva. Poi ci fu la legge sui pentiti, cioè quindi anche quelli che avevano accusati di vari omicidi furono liberati dopo poco. E a un certo punto però lo Stato, che in un primo momento reagì in maniera così dura, in seguito alla dissociazione, in parte alla rottura così della solidarietà anche interna, e secondo me fu molto furbo e fece una legge nell'86 che si chiama la legge Gozzini, dove in sostanza è una legge che consente anche a chi aveva le pene esempio dell'ergastolo di poter accedere alla libertà con un percorso che veniva fatto, che viene fatto. E nella legge Gozzini abroga l'articolo 90 ma istituite il 41 bis, che in un primo momento il 41 bis viene prorogato di anno in anno, non è tanto dato, diciamo così, viene, la dicitura esatta sarebbe: riguarda inizialmente soltanto le situazioni di rivolta o altre gravi situazioni di emergenza interna alle carceri, veniva come l'articolo 90. Invece il 41 bis nel 92, in seguito all'assassinio di Capaci, dei magistrati Falcone e Borsellino, viene diciamo così, al 41 bis vengono sottoposti tutti i detenuti che hanno per reati del 416 bis, reati di mafia, ed vengono proprio basta questa accusa per essere sottoposta al 41 bis anche a livello iniziale. Nel 2002, in seguito all'uccisione di Marco Biagi, vengono estesi anche ai reati per terrorismo ed eversione. Allora, in Italia i detenuti politici, diciamo così, della vecchia guardia degli anni 70 sono una ventina, perché quasi tutti sono fuori. Sono dislocati in tre carceri, un gruppetto è a Terni, uomini, un altro gruppetto di uomini è Alessandria, e le cinque donne sono a Latina. Questi detenuti non hanno un regime di 41 bis, perché sono stati detenuti prima del 2002. La forma di isolamento che loro subiscono è che sono in sezioni dove non vedono mai gli altri detenuti, si vedono solo fra loro. Loro hanno le agevolazioni che hanno gli altri detenuti, cioè possono partecipare ai corsi, fanno delle iniziative, così. L'unica cosa è che non fanno mai l'aria con gli altri detenuti. Allora, io per esempio da 16 anni ho i colloqui con una detenuta che sta a Latina, e lei dice che dopo 16 anni, no, lei è dentro dall'88, quindi sono quasi 30 anni, e dice che chiaramente non è un isolamento vero e proprio, perché hanno celle singole, la loro socialità fra loro, ma dopo tanti anni cinque persone le stesse, dovete, insomma, è abbastanza pesante, no? Allora, ci sono solo tre detenuti politici, diciamo, che sono in 41 bis, sono quelli accusati e condannati per Biagi ed Antona. Sono la Lioce, Nadia Lioce, che si trova nel carcere dell'Aquila, Roberto Morandi, che si trova a Spoleto, e Marco Mezzasalma, che si trova a Cuneo. Questi sono sottoposti appunto a questo regime di 41 bis, dopo vi spiego che cos'è esattamente. Una quarta detenuta, sempre di quell'inchiesta, che era stata condannata all'ergastolo, Diana Blefari, nonostante l'avvocato avesse chiesto che venisse tolta dal regime di 41 bis, perché stava molto male, aveva perizie mediche, e il ministero non ha accettato, e lei si è uccisa nel carcere di Rebibbia nel 2009. Allora, adesso vi dico cosa il 41 bis prevede. I contatti con altri detenuti sono ridotti al minimo. Il detenuto è stipato in una cella singola e con un accesso a spazi comuni del carcere come palestra e biblioteca. Non ha accesso, cioè, a questi servizi. L'ora d'aria è limitata a un'ora al giorno e avviene al massimo con altri 3 detenuti, scelti dalla direzione, logicamente. Infatti a Nadia per anni hanno messo, per non farla, non potevano lasciarla da sola, hanno messo una volta una detenuta che era giù di testa, un'altra volta una detenuta per camorra, che con, naturalmente con Nadia non aveva delle affinità. E poi, il detenuto in regime di 41 bis ha una sorveglianza speciale e apposita. Si tratta di questurini appartenenti a un corpo speciale di polizia penitenziaria, i quali a loro volta non entrano in contatto con le altre guardie carcerarie. Io penso che questi siano i famosi GOM venuti alla cronaca a Genova, a Bolzaneto, che sono un corpo speciale istituito dal, quando era ministro di Grazia e Giustizia Di Liberto. I colloqui con i familiari e avvocato difensore sono limitati, con i familiari una volta al mese della durata di un'ora, e avvengono attraverso un vetro divisorio senza possibilità di contatto fisico, e qualora il magistrato lo disponga possono essere anche registrati. Per i colloqui con figli minori di 12 anni può essere tolto l'obbligo del vetro. La, io non so, voi avrete visto un sacco di film americani e sembra che i colloqui là si svolgono così col vetro. Io vi dico, no, non è dappertutto. Io per 3 anni ho fatto i colloqui col vetro e dico che per me è stata la cosa più pesante della mia peregrinare per le carceri, perché è una cosa veramente allucinante. Poi, è ammessa una sola telefonata al mese esclusivamente con i familiari più stretti, i quali, per essere contattati, devono recarsi di persona presso il carcere della propria città e ricevere la telefonata. Cioè, quindi pensate come è molto semplice. Anche la posta del detenuto in 41 bis è strettamente limitata e sorvegliata, come sono i pacchi, le buste. Beh, questo per Latina, esempio, le compagne di Latina hanno la censura da sempre, mentre i compagni di Terni no. Qui sono tutte le discrezionalità che esistono nelle varie galere, come la storia del Vitto, cioè che in un carcere entrano delle cose, in un altro no, che secondo me sono volute ad arte, perché più c'è discrezionalità e più c'è arbitrio, naturalmente. Allora, anche le eventuali lettere che il carcerato voglia inviare all'esterno devono essere consegnate all'autorità giudiziaria per essere prima controllate e poi eventualmente spedite. Pensate a Latina, sono talmente fanatici della censura che quando io mando dentro i libri, poi me le restituiscono, c'è 2 timbri, uno di entrata e uno di uscita della censura, visto? I libri, i romanzi, tutto. Il detenuto in 41 bis ha una limitata quantità di alimenti che può richiedere. Non si può assolutamente cucinare in cella, quindi il vitto carcerario è sempre stato pessimo e non è migliorato con la riforma penitenziaria, perché su questo ci fanno la cresta sia le ditte che le varie persone penitenziarie. Anche gli oggetti sono limitati, comprese le somme di denaro, e dall'ottobre del 2014 non posso ricevere libri o stampe dall'esterno, neanche dai familiari, devono solo accontentarsi di comprarli il carcere online. Allora, in Italia ci sono 12 carceri dove si applica il 41 bis, e non ve le sto a elencare perché tanto non è importante, perché in questi qui ci sono delle sezioni. I detenuti che sono in 41 bis sono circa 700, oltre quelli per reati di mafia. Secondo me, io non sono, perché ho dei rapporti con il carcere di Latina e con quello di Terni, quindi non ho una visione completa. Ci sono anche quei detenuti che ultimamente vengono arrestati, musulmani, insomma, perché hanno reato di terrorismo internazionale. Quindi, esempio, so che in Sardegna, Macomer, c'è una carcere dove ci sono solo detenuti musulmani, li hanno strettamente divisi. La divisione fra i politici, fra l'altro, perché in Italia, oltre che questi vecchi detenuti in galera da ormai, perché la cosa che io volevo sottolineare non è tanto le condizioni di detenzione, che adesso sono vivibili, fra virgolette, sono che sono dentro da 34 anni alcuni, dall'82. A Latina due detenute sono dentro dall'82 e tre dall'88. Quindi quando in Italia è finito il conflitto, diciamo, no? Ci sono appunto detenuti politici che sono quelli che citava Silvia prima. Ci sono ad esempio quei compagni di arrestati e processati per Genova, dei fatti del 2001. Ci sono quei compagni di Roma, anche quelli che si sono beccati 15 anni e adesso non danno il reato di terrorismo o associazione sovversiva come facevano una volta, danno devastazione e saccheggio. E quindi non rientrano nel 41 bis, però ci sono i compagni della Valsusa, alcuni insomma, che sono ancora dentro. E questi, tutti questi, poi ci sono dei compagni che furono arrestati, mi pare, nel 2012, sempre per fatti di eversione, e le compagne di Milano, e non l'hanno, li tengono distintamente divisi dai vecchi detenuti, insomma, tutti nuovi non vengono messi, anche se sono detenuti politici tutti. Ormai non vogliono che ci sia contaminazione. Diceva il Comitato Europeo per la prevenzione e la tortura delle pene. Nel 95 ha visitato le carceri italiane per vedere quali erano le condizioni dei detenuti sottoposti al 41 bis. Ad avviso della delegazione, questa particolare fattispecie di regime detentivo era risultato il più duro fra tutti quelli presi in considerazione durante la visita ispettiva. La delegazione intravedeva nelle restrizioni gli estremi per definire trattamenti come inumani e degradanti. I detenuti erano privati di tutti i programmi di attività e si trovavano essenzialmente tagliati fuori dal mondo esterno. La durata prolungata delle restrizioni provocava effetti dannosi che si traducevano in alterazione delle facoltà sociali e mentali, spesso irreversibili. Diana, per esempio, si era malata in carcere, insomma, Diana Blefari, quella che vi dicevo. Ecco, il 41 bis nel 2009 è diventato parte integrante dell'ordinamento penitenziario, viene comminato per la prima volta per 4 anni, poi ci sono proroghe successive di 2 e 2, che diciamo all'infinito. Ci sono alcuni detenuti per reati di mafia che sono in 41 bis da 23 anni, per esempio, perché da appunto quando l'hanno nel 92. Il discorso che lei faceva della resistenza, io volevo così sottolineare una cosa. Spesso mi sento dire: ma come, esiste una legge per cui anche i detenuti che sono dentro da 30 anni possono uscire, no? Questa legge Gozzini che vi dicevo, cioè quando uno ha scontato un tot di pena, poi ci sono gli abbuoni per il carcere, si chiamano insomma tanti giorni di premio, e hanno una condotta, diciamo, senza creare casini, possono accedere. E molti mi dicono: ma perché questi compagni non escono? Insomma, gli è venuta la sindrome del carcere. Io non credo che sia, cioè a me dà un po' fastidio che spesso parlano di questi compagni come fossero gli ultimi giapponesi. Cioè il discorso della resistenza, secondo me, come diceva Silvia, è un discorso di identità. A questi compagni, per accedere a queste misure, gli chiedono di rinnegare la loro identità, semplicemente questo. E adesso vi leggo cosa prevede questo DPR per poter accedere a questi benefici. È un DPR fatto nel 2000. L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connesse alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Cioè, un detenuto politico, mi ricordo che gli psichiatri sostengono che è evidente che un detenuto politico è matto, no? Per Diana, perché sennò non avrebbe fatto quella scelta. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali, e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata con il condannato o l'internato una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, il risarcimento dovuto anche alla persona offesa. Quindi non è che come una volta per uscire chiedevano di pentirsi o di dissociarsi, no, adesso semplicemente tu devi partecipare a questo trattamento che è fatto da uno psicologo, un educatore, personale del Ministero di Grazia e Giustizia, la direzione. Devi appunto dire che tu ormai non ci credi più o hai sbagliato, eccetera. Questi compagni dentro, ne parlavo l'altro giorno con la compagna perché gli ho raccontato di questo che venivo qua, no? Naturalmente lei ha detto che, gli ho detto ma provate anche a scrivermi due righe, io non devo giustificarmi, mi ha detto, dice, poi mi sono fatto 30 anni, non mi sono fatta 30 anni di galera per vendere la mia identità. E quindi il discorso della resistenza delle volte è anche questo, perché anche se non c'è, è chiaro che il confronto, come diceva lei, dei curdi o degli egiziani sono in un conflitto continuo, no? In Italia non è adesso così, e quindi però per me resistenza è anche il mantenere la propria identità. I told you we were fools playing all the time in this room, with the death shadows in our mind, with the death shadows fly around. People talked about us, they were saying that we lived in sin, trying to hide our bodies. 20 e 38 martedì, autogestito da femministe e lesbiche, riapriamo in voce questo spazio relativo al 41 bis e soprattutto alla campagna contro il 41 bis. Diamo il benvenuto a una compagna, una voce veramente inconsueta da questi microfoni. Ciao compagne, grazie per avermi invitato. E appunto riprendiamo il discorso cercando di, insomma, contestualizzare questo 41 bis nella realtà che viviamo e soprattutto, insomma, di spiegarne un po' i contorni e come viene articolata invece la campagna, come è nata. Allora, innanzitutto mi è sembrato molto esatto l'intervento della compagna che abbiamo appena ascoltato, perciò non mi ripeterò rispetto a tutti i dispositivi volti all'annientamento che sono in atto dentro il regime carcerario 41 bis. Forse mi dilungherò su alcuni aspetti specifici che poi potremo ritrovare un po' in tutto il sistema carcere. In sostanza, dato che ne ha fatto accenno anche la compagna nell'intervento, la campagna Pagine contro la tortura, diciamo che è volta a rompere il blocco rispetto alla ricezione di libri e qualsiasi altra forma di stampa nel regime carcerario 41 bis, attraverso sia colloqui che corrispondenza. Quindi si tratta di, in soldoni, che solo attraverso un'eventuale autorizzazione dell'amministrazione del carcere, il detenuto e la detenuta in 41 bis può semmai ricevere a discrezione ovviamente dell'amministrazione le stampe e i libri di cui fa richiesta. Ovviamente nel regime 41 bis di cui ci ha appena parlato l'intervento, questa ulteriore restrizione è volta assolutamente all'annientamento della persona. Volevi dire qualcosa? No, d'accordo con te, a piegare soprattutto anche quello che è la tua resistenza all'interno del carcere, nel momento in cui anche tu isoli dagli altri e dalle altre, non hai la possibilità di quello che poi ha fatto resistere tanti compagni in carcere, magari in tanti anni, è stato quello, no? Anche Sakinè, parlavamo prima, è stato quello di unirsi tutte e tutte insieme e riuscire a combattere il sistema carcerario, che è quello che poi portò alla chiusura anche della Sinara, e quindi insomma delle risultati ci sono stati, ovviamente questo regime punta proprio a questo. Assolutamente, appunto noi la chiamiamo la punta dell'iceberg del sistema carcerario, e in questo, diciamo, in questo 41 bis leggere libri è l'unica forma di evasione, di distacco dall'isolamento totale, dalla negazione del corpo, degli affetti, della tua persona, a cui vogliono costringere le persone detenute. E immaginiamo che questa restrizione rende assolutamente impossibile lo studio, rende assolutamente impossibile, anche dati i costi e anche dati i divieti, ma rende anche impossibile, non so, anche di accrescere la propria coscienza politica e via dicendo. Ecco, diciamo che come compagni e compagne abbiamo dato vita a questa campagna molto in ritardo rispetto a questo dispositivo, che è subentrato nell'ottobre 2014, dopo diversi tentativi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che iniziano nel 2011. Questa campagna nasce qualche mese fa con l'intento, sì, in quanto compagni e compagne, di parlare di carcere, partendo appunto dalla punta dell'iceberg, ovviamente il nostro posizionamento è contro ogni forma di reclusione, però il tentativo della campagna è stato di sensibilizzare quanto più possibile rispetto a questo ulteriore strumento di tortura nei confronti dei 725 detenuti e detenute dentro il regime 41 bis. Sì, anche perché insomma tu la chiami la punta dell'iceberg, ma dall'altra parte appunto riguarda molte persone, ma rispetto alla massa sono un numero limitato, su cui insomma si fa passare anche un determinato immaginario sui media, eccetera, il 41 bis come appunto il modo per bloccare la mafia, sostanzialmente in questo modo viene venduto, e in questo modo viene anche dimenticato poi invece spesso nel discorso sul carcere, per chi vuol fare un discorso anticarcerario. Questo sicuramente, tra l'altro insomma ne faceva accenno anche la compagna di cui abbiamo sentito l'intervento, è un regime dove adesso vengono detenuti anche i cosiddetti terroristi islamici, o presunti tali ovviamente, ovviamente sappiamo bene che tempi corrono, quindi in realtà è un tipo di regime che viene esteso a una grande fetta di popolazione che arriva a qua, in realtà quello che c'è da dire ovviamente è che viene applicato anche nei confronti di chi ha reati associativi, quindi sicuramente è un dispositivo pronto e già in utilizzo, che vede collaudato, e che in realtà cade a pioggia all'interno del sistema carcerario tutto. E quindi siccome noi chiamiamo il carcere lo specchio di quello che c'è fuori, è qualcosa che vediamo anche fuori. Come? Uno degli aspetti che per esempio ha dimenticato la compagna nell'intervento, ma perché sicuramente voleva apprestarsi anche a parlare del divieto di ricevere libri in 41 bis, è per esempio il dispositivo dei processi in videoconferenza, che negano alla persona di partecipare al processo, ma anche così di ricevere una solidarietà da parte delle persone che stanno in aula, e così come le diverse difficoltà nel poter interloquire con l'avvocato e via dicendo. Ecco, questo dispositivo lo ricorderete sicuramente nel caso di alcuni compagni, fu recentemente applicato, e questa roba quindi insomma ce la ritroviamo anche piuttosto vicina. In più se immaginiamo il regime 14 bis, che è il regime carcerario punitivo, che è identico al 41 bis, dove però vengono isolati i prigionieri che insomma hanno l'indole non pacificata, ecco, in questo 41 bis poi va a toccare anche chi o partecipa alle proteste o semplicemente denuncia quello che succede dentro le carceri, o spalleggia, fiancheggia altri detenuti che si trovano in difficoltà di fronte l'amministrazione penitenziaria. Quindi diciamo che è un sistema di di schiacciamento totale dell'esistenza delle persone, che poi ovviamente anche grazie alla presenza dei GOM, di cui si faceva riferimento prima, dei gruppi operativi mobili, che sono delle squadrette della polizia che intervengono, ovviamente un carcere che ha un regime 41 bis presente sicuramente ha delle forme di restrizione che si estendono a tutta la popolazione carceraria. Ma voi avete, dopo che avete iniziato questa campagna, siete riusciti in qualche modo a comunicare ai prigionieri e alle prigioniere all'interno del carcere dell'esistenza della campagna? Allora, innanzitutto il discorso è che i detenuti in 41 bis hanno una censura sulla posta e non è dato sapere neanche dove sono rinchiusi e vengono trasferiti, così che per esempio quel colloquio, quell'ora di colloquio al mese che gli viene permesso con parenti tramite vetro, citofono, con l'impossibilità del contatto fisico e via dicendo, spesso trova anche la difficoltà del non ritrovare il proprio compagno, il proprio parente detenuto in quel penitenziario, perché ha subito un trasferimento senza la possibilità di avvisare i parenti. Quindi la difficoltà di comunicazione è enorme, se non tramite ovviamente parenti o avvocati qualora si dovessero conoscere, ma sicuramente la forma che la campagna ha scelto è quella di iniziare, non è che la campagna è iniziata così, ha iniziato la comunicazione con le persone in 41 bis tramite dei presidi davanti alle carceri, e quindi il 16 aprile scorso ci sono stati 6 presidi in contemporanea davanti a 6 carceri dove è presente il regime 41 bis, sia per parlare del fatto che qualcuno all'esterno si stava attivando rispetto alla rottura di questo blocco nel ricevere libri e stampe, sia per insomma parlare di carcere e con tutta la popolazione detenuta. Quindi diciamo è questo stato il tentativo di comunicazione diretta nei confronti delle persone detenute in 41 bis, un tentativo che non è finito, perché insomma ci stanno altrettante carceri che hanno questo regime, e quindi verrà fatta sicuramente un'altra tornata di presidi davanti le carceri dove è presente il regime 41 bis, una è Rebibbia, l'altra sicuramente già si sta quantomeno immaginando e organizzando un appuntamento davanti al carcere dell'Aquila, dove c'è l'unico regime 41 bis dove sono rinchiuse delle donne, quindi questo è un altro appuntamento, ma siamo già oltre quello di cui parleremo fra poco. No, certo, insomma un appuntamento questo che ci possiamo immaginare diciamo per il mese prossimo, insomma, ma torneremo ovviamente a parlarne da questi microfoni. E poi comunque insomma quello che volevo aggiungere è che ogni volta insomma che si fa un presidio davanti a un carcere significa anche, come dire, rompere quella specie di muro invisibile che c'è tra la popolazione che vive fuori e quella che vive dentro, che non è solo una mancanza di comunicazione ma è anche proprio una rimozione collettiva della gabbia che c'è in mezzo a noi in qualche modo, e in questo caso è ancora più pesante perché si tratta di un carcere dove al suo interno esiste un regime ancora più duro. Insomma, quindi significa anche parlare con chi vive in quella città, in quel quartiere, e magari non si sofferma a pensare a quello che c'è oltre quel muro. Personalmente ho partecipato al presidio davanti al carcere di Terni e devo dire che anche l'ubicazione stessa tra un inceneritore, una discarica, in aperta campagna, devo dire che la rimozione collettiva dell'esistenza di una nocività tale è piuttosto evidente. Quindi anche ecco, magari qua in città ci sono maggiori opportunità di parlare di carcere con chi ce l'ha presente dentro il quartiere, mentre in alcuni casi è totalmente isolato, ed è proprio questo uno degli ulteriori tentativi, anzi dispositivi che si stanno mettendo in campo, ovvero il fatto che lo Stato vuole spostare tutti i regimi a 41 bis nelle isole. Quindi stiamo parlando di Sardegna e Sicilia. Immaginiamo per un parente che cosa può significare dover intraprendere un viaggio del genere ogni qualvolta si può portare visita a una persona. Ecco, la compagna che prima faceva l'intervento ci parlava di un carcere in Sardegna dove sono presenti tutti i musulmani che sono stati incarcerati per presunti reati associativi legati al terrorismo. Sì, fra l'altro, insomma, oggi, per dire che stiamo parlando di cose che accadono intorno a noi, proprio oggi tutti i giornali, tutte le almeno giornali online, perché la notizia credo sia di stamattina, mettono al primo posto la notizia di arresti di presunti terroristi. Ovviamente presunti non c'è nel titolo, nel senso che tutto costruito, come sappiamo, vengono costruite queste notizie in questi giorni, insomma, in questa epoca più che in questi giorni. Ecco, su questo sottolineo anche l'aspetto che in questi nuovi centri di identificazione forzata che sono stati aperti per ora in Grecia e in Italia, questi maledetti hotspot, ecco, la notizia rispetto a questi arresti è stata accompagnata dalla notizia dell'introduzione di 150 agenti dell'Europol, quindi del nucleo antiterrorista coordinato in maniera europea all'interno di questi centri, proprio per creare un'ulteriore mostrificazione nei confronti delle persone che arrivano sul territorio europeo sperando di guadagnarsi una vita migliore. Tornando, insomma, a parlare della campagna contro il 41 bis, insomma, non so se abbiamo concluso, insomma, com'è organizzata la campagna. Allora, la campagna come diciamo primo obiettivo ha cercato di coinvolgere quante più case editrici, scrittori, editori o chi che sia nel prendere parte attivamente alla campagna, rompere il blocco, ovvero inviando libri e scrivendo delle lettere sia al tribunale di sorveglianza, che è quello che diciamo proroga la detenzione nel 41 bis, sia al DAP, al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che è un dipartimento del Ministero della Giustizia, ovvero il firmatario di questa circolare che nega la possibilità di ricevere stampe e libri in 41 bis. E in realtà questo tentativo ha anche funzionato, sono arrivate le prime adesioni, la prima forma di partecipazione attiva con delle spedizioni, addirittura un appello autonomo dell'archivio Moroni che ha preso parola cercando di coordinare anche una spedizione collettiva e un'adesione delle case editrici, e la partecipazione così a fiere dei libri cercando di parlare con più case editrici, editori possibili, così come gli interventi a presentazioni dei libri più o meno amiche, comunque anche l'interruzione a una presentazione che ha molta visibilità sul tema carcerario l'abbiamo presa come una buona possibilità, e sicuramente il libro, ecco, della compagna Sara Sakine Kansits è stata una buona opportunità sia a Roma che a Bologna per insomma prendere in mano questa questione fra compagne. Ecco, oltre a questo passaggio, che in realtà si tratta di tantissime iniziative piccoli, dalle più piccole a quelle insomma di intervento in eventi abbastanza pubblici, ecco, è stata anche una forma per approfondire tra compagni e compagne quello che è questo dispositivo di annientamento nel sistema carcerario, e poi insomma si è proseguiti con iniziative un pochino più militanti, sicuramente, che sono quelle dei presidi davanti le carceri con comunicazione diretta nei confronti delle persone che stanno dentro, presidi che hanno ricevuto molta risposta da dentro. Devo dire che in tutti e sei i presidi si sono registrati bei momenti di cioè una manifestazione che avveniva dentro e fuori le mura delle carceri. E come altro passaggio c'è questo qua di venerdì prossimo 13 maggio, con un presidio davanti al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, quello di cui parlavo prima, corresponsabile appunto dell'introduzione di questa limitazione. E questo presidio ha la particolarità di essere in coordinamento con l'assemblea anche di Amici e Amiche d'Eneas, che è un ragazzo che è morto dentro uno delle carceri italiane, mi pare il carcere di Pesaro. Anche lì c'è stato un presidio davvero partecipato a seguito della morte, a seguito dell'attivazione delle persone che aveva accanto, che si sono visti mancare un proprio amico dentro insomma dentro queste gabbie di Stato. Quindi diciamo che gli Amici e le Amiche d'Eneas avevano già in campo uno stesso presidio, in realtà l'hanno anticipato accelerandosi nell'organizzazione per far coincidere insomma gli sforzi. E appunto questo presidio vuole andare a bussare alla porta proprio dei diretti responsabili, di quelli che scelgono delle sorti delle vite di centinaia di persone. E diciamo è un momento che ha non tanto di comunicazione con l'interno, è un no secco a tutti i divieti, è un no secco all'esistenza delle carceri, è sicuramente il fatto di evidenziare il fatto che quelle persone che sono chiuse dentro le carceri di questo Stato non sono sole, e che c'è un'attivazione all'esterno, ci stanno persone che non fanno finta di non vedere. E appunto l'appuntamento è per le ore 14 a Largo Luigi Daga, che è proprio davanti la sede del DAP. È difficilmente raggiungibile, devo dire. Dopodiché ci stanno tutta una serie di indicazioni sul sito, sul blog della campagna paginecontrolatortura.noblogs.org, con diciamo i riferimenti dei mezzi da prendere per poter raggiungere il DAP e partecipare a questa protesta. Direi che facciamo una breve interruzione musicale e poi torniamo in voce per chiudere questo spazio del Parapiglia. Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parle que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitairement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance ont tracé leur route sur nos libertés. Ils ont juré, craché, créé un entrave à la leur. À l'heure où les dictatures sont cachées, à cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats ont réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestation dite criminelle si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager, puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disent être transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leurs plans depuis que des avions se sont crachés. Et toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché? Ils prêchent le blasphème et la vraie lumière se fait lyncher. Tenez la corde au cou dans certains pays, elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde d'aujourd'hui, paraît que leur plan a marché. Nous vantent un progrès technique qui dans le fond a tout saccagé. Parle d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher. Notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé. Mais on ne cherche pas la cause, c'est les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast-food pour que nos consciences soient terrassées. Au nom de la dignité humaine, nous avons dit assez, assez. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Elle sera jamais pareille, tu l'as pas. Elle sera jamais pareille, tu l'as pas. Elle sera jamais pareille, tu l'as pas. contre un système qui crée le terreau favorable à la haine de l'autre, au racisme et au mépris. Le refus de coopérer, de collaborer avec l'autorité. Même si on marche séparément, on doit frapper ensemble. Il y a quelque chose, une injustice quelque part, on descend tous. Il y a un problème quelque part, on descend tous. Et notre place, c'est de la désobéissance civile, c'est pas de la violence. On a une place énorme, une responsabilité énorme dans ce qui s'est joué et ce qui se joue et ce qui va se jouer dans l'avenir. 21:00 in questo momento, al martedì autogestito da femministe e lesbiche. Abbiamo chiuso insomma uno spazio sulla campagna Pagine contro la tortura. Vi ricordiamo ancora il blog paginecontrolatortura.noblogs.org. Vi ricordiamo ancora che questo venerdì c'è appunto un presidio di fronte al DAP, al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, a Largo Daga. Trovate tutto appunto sul blog, che poi insomma ci saranno altre iniziative, tra cui una davanti al carcere dell'Aquila, che è l'unico carcere con un reparto femminile di 41 bis. Questa è una settimana, come dire, molto segnata dalla repressione di Stato, e molto che vogliamo però segnare insomma con la solidarietà e a chi si trova insomma a essere nei carceri o a essere imputato nei processi. Insomma, stiamo parlando del fatto che questo giovedì 12 è una tappa che sembra insomma di un primo termine alla vicenda del 15 ottobre, e quindi insomma vogliamo ricordare anche il presidio di giovedì. Allora, il presidio di giovedì è previsto davanti a Piazzale Clodio, e stiamo parlando del processo che riguarda la giornata di lotta del 15 ottobre 2011 a Roma. Credo che chi ci ascolta insomma ricorderà una manifestazione con migliaia di persone e una vicenda repressiva che inizia dalle ore in piazza con arresti, dure condanne, successivamente un altro troncone di inchiesta ha portato i compagni dell'azione antifascista Teramo ad essere condannati per il reato di devastazione e saccheggio, e successivamente si è aperto questo terzo troncone processuale che riguarda 18 persone, anche loro imputate per il reato di devastazione e saccheggio, e 3 di loro anche per tentato omicidio. E appunto si giunge il 12 maggio alla chiusura del primo grado per questo terzo troncone processuale. Per il 12 maggio appunto dalle 9 del mattino è previsto un presidio davanti a Piazzale Clodio, come insomma una presenza che si è confermata incessantemente ogni udienza che ha riguardato le persone processate per questa giornata di lotta, e a seguire un'assemblea alle 18 in quel del L38 Squat nel quartiere Laurentino 38, con compagni e compagne anche da Milano e Cremona, città dove si ritrovano anche loro ad affrontare dei processi con imputati per reato di devastazione e saccheggio. Parliamo delle giornate del primo maggio No Expo dell'anno scorso e del corteo antifascista che a Cremona ha dato insomma una risposta all'aggressione che ha portato quasi in fin di vita un compagno. Quindi ci saranno compagni da diverse città che interverranno più che altro sui limiti e i problemi rispetto dei percorsi di solidarietà e rispetto diciamo gli stessi processi che si stanno affrontando con l'imputazione del reato di devastazione e saccheggio. Noi a questo punto ti ringraziamo per questa tua partecipazione al martedì autogestito da femministe e lesbiche. L'appuntamento per tutte e per tutti è nelle piazze che abbiamo appena insomma cercato di raccontare da questi microfoni. Grazie a voi.